fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Nel primo dopoguerra non si trovava né petrolio né derivati del petrolio. Mancavano cemento e mattoni e mio padre decise di iniziare la fabbricazione di mattoni. La prima fornace fu fatta di mattoni crudi che mio padre fece fabbricare. Mi ricordo anch'io da bambino che mi divertivo con delle cassettine uno a uno a fare questi mattoni crudi. Poi fece una seconda fornace di mattoni cotti più efficiente, però poi fu richiamato dal petrolio. Ecco, avete appena sentito la voce di Riccardo Garrone, che è stato per tanto tempo a capo del gruppo ERG, che fino a 2 anni fa veniva definito come il più grande gruppo privato di energia in Italia, perché aveva la raffinazione, la produzione di energia elettrica, il termoelettrico, l'eolico e una vasta rete di pompe di benzina. Era un gruppo industriale molto rilevante per il paese, con circa 8 miliardi di giro d'affari. Ma perché uso il passato? È un po' una provocazione nei confronti del figlio, il dottor Edoardo Garrone, che mi sta di fronte. Buongiorno. Buongiorno. Perché adesso non c'è più la raffinazione, non c'è più un certo tipo di produzione di energia elettrica e il gruppo ha cambiato totalmente pelle, ha venduto ai russi la raffinazione e è diventato un gruppo specialista nell'eolico, leader italiano nell'eolico, nonché un co-leader in Europa, che in Europa sta crescendo sempre di più, poi anche delle cose nel termoelettrico e nell'idroelettrico, e ha conservato, gli chiederemo poi per quanto, la rete distributiva di pompe di benzina. In questa puntata racconteremo la storia di questo gruppo, che è molto interessante perché è stato un asse portante della storia economica italiana e probabilmente, io spero, lo sarà ancora. Ma cercheremo anche di capire se fanno ancora industria, se sono ancora industriali e che cosa significa fare industria. Infatti, la prima domanda che faccio a Edoardo Garrone, che oggi è presidente della ERG e che è il secondo dei Garrone a chiamarsi Edoardo, perché il fondatore, suo nonno, si chiamava anche lui Edoardo. La prima domanda che gli faccio è: ma siete ancora degli industriali? Assolutamente sì, anche se abbiamo... In questi anni, dal 2008, abbiamo trasformato quasi completamente il gruppo da gruppo petrolifero a gruppo che produce energia elettrica da fonti rinnovabili. Siamo industriali perché gestiamo direttamente i nostri impianti, mentre nelle rinnovabili molti operatori di fatto affidano la gestione a terzi, che in genere sono i produttori degli impianti stessi. E perché li gestite direttamente voi? Perché riteniamo di poter fare più efficienza, di poter programmare meglio le manutenzioni programmate degli impianti, di poter gestire molto meglio le emergenze con interventi diretti di tecnici specializzati che sono dislocati nelle varie zone del paese dove abbiamo gli impianti eolici, e di conseguenza fare efficienza ed essere più competitivi. Ma come funziona un impianto eolico? Ce lo può raccontare brevemente per spiegare ai nostri ascoltatori che cosa significa dal punto industriale e se in qualche modo assimilabile a una fabbrica? Beh, intanto c'è la fase realizzativa. Nella fase realizzativa è un'opera di ingegneria importante a tutti gli effetti, perché bisogna, in genere vengono realizzati in aree appenniniche e bisogna fare tutta l'infrastruttura di base, dalle strade ai cavidotti per far passare i cavi dell'energia elettrica, alle sottostazioni elettriche per la trasformazione dell'energia prodotta. Poi bisogna portare a pezzi gli aerogeneratori, così si chiamano le pale eoliche, e se pensate che un aerogeneratore di circa 2 megawatt e mezzo ha ogni singola pala, è fatta di tre pezzi, è lunga circa 30 metri, immaginate cosa significa mandare su per una strada per l'Appennino un camion che possa portare un pezzo unico di 30 metri. Poi si fa tutta l'infrastruttura di base e poi si costruisce a blocchi il palo, che in genere è circa alto 100 metri, e su questo poi si monta la turbina e le pale. Ecco, questa è un'opera già di per sé una fase di costruzione importante. E poi c'è la gestione. La gestione vuol dire sapere programmare molto bene le ore di operatività delle pale, nel caso di guasti saper intervenire tempestivamente, perché sennò si perde produzione e quindi si perdono ricavi. Ricordiamoci che anche nel settore eolico, come in tutte le rinnovabili, quando si produce energia elettrica si ha priorità di dispacciamento, quindi sì. È la prima energia che va in rete. Mentre le centrali, per esempio termoelettriche, in caso che, quando non c'è domanda, devono rallentare la produzione. Questo perché non si può stoccare l'energia elettrica. E quindi è tutto in continuo? È tutto in continuo. Quando c'è domanda c'è produzione e va direttamente in rete, quindi va al consumo. Comunque io ho iniziato a guardare un po' i conti in modo un po' superficiale, che io non sono un analista finanziario, ma la cosa che mi ha colpito è che da quando avete abbandonato la raffinazione e altri business elettrici, i ricavi del gruppo sono scesi di un quarto, però in valore assoluto gli indicatori di marginalità non sono molto cambiati. Faccio qualche esempio ai nostri ascoltatori. Nel 2012, quando ancora avevate queste gigantesche raffinerie, in primis a Priolo, il gruppo faceva 8,2 miliardi di euro di ricavi. Nel 2014 sono scesi a 2 miliardi, quindi da 8 a 2 miliardi vuol dire è diminuito il ricavo del 75%. Però nel 2012 il MOL, il margine operativo lordo, era di 352 milioni, nel 2014 è addirittura salito a 547 milioni. Il risultato operativo netto era nel 2012, quando il gruppo fatturava 8,2 miliardi, pari a 197 milioni, e nel 2014 addirittura salito a 249 milioni. L'unica cosa che non mi spiego è come mai invece si è ridotto il risultato netto, forse per via di effetti fiscali, perché nel 2012 era 200 milioni e invece nel 2014 è sceso a 73 milioni. Allora, intanto ci sono alcune considerazioni di base da fare. I ricavi nel settore petrolifero sono ricavi poco significativi come indicatore, perché gran parte dei ricavi sono accise. Di fatto, certo. Quindi sono tasse. Ecco, sono dentro? Sono dentro. Quindi di quegli 8 miliardi, 6 li andavano allo Stato più circa. O meno. Secondo, la riduzione dei ricavi si spiega per l'effetto accise soprattutto. Sì. Mentre il risultato netto è vero che è sceso, ma abbiamo preso un anno record, l'anno della raffinazione, con quel risultato che ha detto lei è stato un anno record per noi, quindi non ripetibile. Però al di là di questo, il dato che secondo me è interessante è che nell'energia eolica in generale, anche nel termoelettrico e nell'idroelettrico, ci sono margini che sono più interessanti di quelli della raffinazione. Soprattutto sono più stabili. La raffinazione storicamente, a parte gli anni della crisi, sono stati anni anomali per tutti, aveva un andamento molto ciclico nell'arco di un triennio. C'era un anno discreto, un anno cattivo e un anno buono. E infatti mio padre diceva sempre: dovevamo fare il bilancio triennale. Sono più stabili ma anche più grassi. No, sono, rispetto all'EBITDA sono superiori. Invece rispetto all'andamento dei cicli economici, sono più, la curva dei margini è più flat, sono un po' più grassi ma un po' più piatti, diciamo così. Comunque io trovo molto affascinante la vostra storia, tanto che questa volta, in genere noi facciamo delle schede che sono corte, però per raccontarla tutta ne ho fatte due, e dunque vi prego di ascoltare la prima parte della storia del gruppo ERG. La storia del gruppo ERG inizia il 2 giugno del 1938, quando nasce la ditta individuale di Edoardo Garrone per il commercio di prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio e del catrame. La società, diventata raffineria nel primo dopoguerra, sceglie come marchio un dado, da Dado, affettuoso diminutivo di Edoardo, sulle cui facce viene riprodotto un acronimo di 3 lettere. Dalle iniziali di raffineria Edoardo Garrone, scritte sulle facce del dado, si legge ERG. L'attività di raffinazione, grazie alla favorevole congiuntura e alla felice posizione geografica degli impianti, diventa strategica per ERG. Nel 1956 la società realizza il primo importante accordo internazionale con British Petroleum, che per alcuni anni detiene una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di ERG. Nel 1971 ERG entra con altri gruppi privati nella compagine azionaria di ISAB, società nata per realizzare una grande raffineria in Sicilia. Nel 1985, in previsione della chiusura della raffineria di San Quirico a Genova, ERG assume il controllo di ISAB, con una partecipazione che cresce negli anni fino a raggiungere nel 1997 il 100%. Dopo aver sviluppato l'attività prevalentemente nel settore della raffinazione, la società, attraverso la controllata ERG Petroli, inizia a crescere a livello nazionale anche nel settore della distribuzione carburanti, dove peraltro era già presente con una propria rete di stazioni di servizio nell'Italia nord-occidentale. Nel 1984 ERG acquisisce i 780 impianti della Elf Italiana e nel 1986 i 1700 impianti di distribuzione di Chevron Oil Italiana. Nasce così la rete di distributori di benzina ERG, riconoscibile in tutte le strade d'Italia per il marchio delle tre pantere rampanti. Alla fine del 1993 nasce ISAB Energy, accordo tra ERG ed Edison Mission Energy, uno dei maggiori produttori di energia al mondo. La società viene costituita per la realizzazione del primo impianto italiano di rigassificazione degli oli pesanti per la produzione di energia elettrica. Nell'ottobre 1997 ERG debutta in borsa. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Fabbrica 2.4. La storia ISAB inizia nel 71. Da alcuni anni, mi pare di ricordare dal 67, avevamo deciso che Genova non avrebbe potuto ampliarsi e realizzare nuovi impianti. Ecco, siamo ancora in linea con Edoardo Garrone che ci racconta la storia del suo gruppo. Abbiamo appena sentito il secondo frame della voce del padre Riccardo che racconta un po' come hanno deciso poi di fare la ISAB Energy. ISAB Energy che insieme ad altri asset è stata ceduta da poco tempo ai russi della Lukoil, perché il gruppo, come raccontavamo nella prima parte della trasmissione, si sta concentrando su energia eolica in primis, poi termoelettrico e idroelettrico. Ricordo che la ERG nell'eolico ha una capacità di produzione di 1446 megawatt, circa il 70% in Italia, il resto è in altri paesi d'Europa, Germania, Francia, Polonia, Bulgaria e Romania. Poi ha il termoelettrico con 480 megawatt, l'idroelettrico con 527 megawatt e la rete distributiva che è condivisa con Total, che è circa il 12% delle pompe di benzina che ci sono in Italia. Ma cos'è cambiato, dottor Edoardo Garrone, rispetto ai tempi della ISAB che raccontava suo padre, abbiamo ascoltato in questo frame? È successo che sei mesi dopo la Lehman Brothers, i margini di raffinazione sono crollati perché sono crollati i consumi per la crisi e tutte le raffinerie, soprattutto quelle nel Mediterraneo e in Europa, hanno cominciato a perdere soldi, tanti soldi, e quindi è finita. E quindi avete rifilato il malloppo ai russi? No, non facendogli un gestaccio? No, assolutamente no. Noi in realtà l'accordo l'abbiamo fatto prima della crisi, l'accordo di cessione a raffineria. Era un accordo nato per un'operazione 51-49, quindi per gestire insieme una joint venture. Avevamo ottenuto una protezione perché facevamo un'alleanza con un colosso quindi nel tempo non si sa mai, di una protezione in termini di put option progressive, cioè, per sì, le quote che avevamo. Quindi se aveste litigato avevate il diritto a vendergli tutto, però non c'era questa intenzione quando avete fatto l'assolutamente l'accordo, no. È subentrata dopo. La strategia di allora era quello, siccome noi avevamo il doppio di raffinazione rispetto alla rete di vendita, perché non esisteva ancora Total Erg, era la Erg da sola, avevamo circa il 6% del mercato italiano, ritenevamo che i margini di raffinazione, come ho detto prima, fossero troppo volatili, e allora per ridurre capacità di raffinazione ci siamo alleati con Lukoil. E un anno dopo però il mondo è cambiato, i margini sono crollati, noi avevamo questa put option in mano che aveva a valori antecrisi e l'abbiamo esercitata, perché e quindi avete incassato circa 3 miliardi di euro, 2,5 circa, e di questi quanti subito anche le perdite nel frattempo. Ah, ecco, e di questi quanti ne avete reinvestiti finora? Fino ad oggi, ho il conto preciso a una settimana fa, abbiamo investito in acquisizioni nell'eolico circa 1 miliardo e 800 milioni di euro. Se poi sommiamo gli investimenti fatti in nuovi parchi eolici, quindi che abbiamo gestito noi, sono altri 600 milioni di euro, e quindi arriviamo a 2,4. Sì. Se aggiungiamo l'ultima acquisizione, quella del sistema idroelettrico di Terni, 950 milioni, vuol dire che arriviamo a 2,4, 3,3,5. Ma ci saranno ancora altre acquisizioni in futuro? Beh, noi prevediamo di crescere organicamente, come definiamo noi, nelle rinnovabili, quindi portare a casa e realizzare i parchi che abbiamo nelle pipeline per arrivare a circa 2000 megawatt complessivi. Quindi basta acquisizioni. Prevediamo crescita organica, e dobbiamo però far funzionare molto bene, creare efficienza con le acquisizioni fatte, perché abbiamo fatto anni di fortissima acquisizione. Se pensiamo che noi capitalizziamo circa 1,8 miliardi di euro, tra acquisizioni e cessioni abbiamo fatto operazioni per 8 miliardi. E ora però bisogna mettere a posto l'organizzazione. Io lo dico con rimpianto, perché noi giornalisti ci divertiamo sempre, allora, a fare prima le congetture, poi ad annunciarle, poi a fare i commenti. Campiamo di questo. Non sono previste grosse acquisizioni, ma prevediamo di crescere, perché comunque gli investimenti vanno avanti. Ecco, ma la rete delle pompe di benzina ve la tenete o la cedete tutta a Total? È previsto che la teniamo. La joint venture funziona. Con Total i rapporti sono ottimi, non è consolidata nel bilancio, infatti nei dati, prima l'ho dimenticato, non è compresa, però è un importante asset in questo paese. Anche questo, anche la rete di distribuzione ha subito gli effetti della crisi, come tutto il settore. Ha perso volumi di vendita, moltissimi. Comunque, vabbè, ve la tenete. La devo un po' incalzare, mi scusi, perché il tempo è tiranno. E voglio far ascoltare agli ascoltatori, che si chiamano così perché ascoltano, la seconda parte della scheda sulla storia di Erg. Nel 2000 Erg diventa una compagnia multi-energy con l'entrata in funzione della centrale ISAB Energy. Il 2006 vede un passaggio decisivo nell'ambito della strategia multi-energy di Erg, con l'entrata nel mondo delle rinnovabili e l'acquisizione di Enertad S.p.A., che successivamente cambia la propria denominazione sociale in Erg Renew. Il 2008 è l'anno dell'accordo con Lukoil, che attraverso la costituzione della NewCo ISAB SRL, 51% Erg Raffinerie Mediterranee e 49% Lukoil, vede realizzarsi una solida partnership nelle attività di raffinazione e nella gestione della raffineria ISAB di Priolo. All'inizio del 2010 nasce Total Erg, joint venture tra Erg Petroli e Total Italia, che uniscono le loro grandi reti di pompe di benzina. È il terzo operatore in Italia, con una quota di mercato di circa il 12% e 3.200 stazioni di servizio. Il 2013 è l'anno dell'uscita dalla raffinazione e dalla produzione di energia elettrica, con la cessione di tutte le attività a Lukoil. Il gruppo Erg incassa circa 3 miliardi di euro, che vengono interamente reinvestiti nelle attività di generazione di energia da fonti eoliche, termoelettriche e idroelettriche. Il core business diventa l'eolico, di cui ERG è leader italiana con una quota di mercato del 12% e importante player europeo, con l'ambizione di crescere ulteriormente attraverso acquisizioni. La dimensione della società si contrae, passando dagli 8,3 miliardi di ricavi nel 2012 ai 2 del 2014. Essendoci però maggiori margini nelle nuove attività, la redditività in valori assoluti resta molto simile o addirittura aumenta. Per esempio, il margine operativo lordo passa dai 332 milioni del 2012 ai 547 del 2014. Ecco, avete sentito come è nato e si è evoluto il primo gruppo energetico a capitale italiano. Ora vorrei far sentire la terza parte di questi frame audio molto interessanti in cui Riccardo Garrone, che ne è stato capo per tanti anni, ne racconta la storia, e poi concludiamo con Edoardo chiedendogli se quello spirito c'è ancora o no. E all'inizio dell'entrata in funzione, al momento dell'entrata in funzione della raffineria, fine 75, la capacità era coperta soltanto per poco più del 50% e avevamo un indebitamento da far tremare i polsi. Fu un momento drammatico. La validità dell'impresa, il disegno dei suoi processi produttivi, la grande capacità degli uomini che la gestivano, ci fece superare quel momento terribile. Queste risorse furono utilizzate negli anni '80 per acquisire le reti di distribuzione della Elf e della Chevron. Ecco, dottor Edoardo, ma lo spirito di suo padre che abbiamo appena sentito parlare c'è ancora o è volato via nel vento, è disperso nell'eolico? No, assolutamente c'è tutto. Noi abbiamo reinvestito tutto quanto ricavato dalle cessioni della raffineria Lukoil, come ho detto prima, nelle rinnovabili, quindi siamo un'azienda che, cioè, insomma, siamo una famiglia, non si mette i soldi in tasca. Perché la nostra filosofia è quella di continuare a fare gli imprenditori. E gli industriali più che gli imprenditori. Imprenditori industriali. Perché lei si appassiona, io lo vedo come si accalora. Però sì. Comunque è faticoso. Tra l'altro noi abbiamo anche investito nel vento molto all'estero e investiremo all'estero nei prossimi anni. Ma abbiamo una capacità, con capitale investito in Italia, reinvestito, perché abbiamo disinvestito e reinvestito, sì, in un altro settore importantissimo. Poi avete ancora una leva finanziaria notevole, perché mi risulta che il gruppo sia poco indebitato. Il gruppo ha dati semestrale prima della semestrale 2015, aveva un indebitamento molto basso rispetto, appunto, al capitale investito. Quindi la capacità investito. Di leva, se si presentassero occasioni che noi giornalisti ci speriamo. Però dalla semestrale ad oggi abbiamo investito di equity, quindi risorse del gruppo, circa 700 milioni negli ultimi sei mesi. Che significativo. Il tempo è tiranno, ci dobbiamo salutare, la ringrazio. Grazie mille. E arrivederci alla prossima puntata. Mi raccomando, sintonizzatevi Fabrica 2.4 domani alle 13:15, che domenica, puntata assolutamente imperdibile.